Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati. Un caro saluto a tutti voi ascoltatori, a quanti ascoltano dalle loro case, a quanti sono in viaggio. È sempre bello una volta al mese accostarsi insieme alla parola di Dio e al termine di una giornata lasciarci un po' illuminare da quella parola che ci rappresenta un po' tutti. Anche in giornate faticose il potersi sedere e ascoltare, condividere insieme a voi la parola di Dio è anche per me un momento di grande ricchezza, grande condivisione. Quindi stasera vorrei iniziare proprio dicendovi grazie perché grazie al vostro intervento, alle vostre domande, a questo momento di ascolto della parola di Dio. La parola illumina prima di tutto la vita di chi parla e poi anche di chi ascolta. L'obiettivo della nostra trasmissione emerge dal titolo, ogni volta lo richiamiamo, ogni volta lo spieghiamo, la tua parola mi fa vivere, cioè una parola che pretende di entrare nella vita dell'uomo, di illuminare non solo la sua testa, ma anche il cuore, e plasmare attraverso l'accoglienza di questa parola l'esistenza e la vita di ciascuno. Come sapete, il nostro appuntamento si distingue sempre, si divide sempre in due momenti. Un momento in cui io spezzo la parola davanti a voi e un secondo momento in cui siete voi che invece intervenite con le vostre brevi riflessioni, i vostri interrogativi, le vostre perplessità, i vostri quesiti di approfondimento. Ecco, entrambi questi momenti sono come due polmoni di un unico che favoriscono il respiro di questo approfondimento della parola e che permette di arricchirci vicendevolmente. Stiamo facendo il nostro percorso di lettura continua degli Atti degli Apostoli e questa sera toccheremo un passaggio, uno snodo importante nella narrazione degli Atti degli Apostoli, ed è lo snodo del capitolo 6. Ovviamente non riusciremo a leggerlo tutto, leggeremo solo alcuni versetti, esattamente i primi 7 versetti del capitolo 6, che però fotografano la comunità in un momento importante, in un momento delicato. È praticamente il momento in cui per la prima volta la comunità cristiana sperimenta un grave momento di disagio al suo interno. Non è l'unico tra i momenti che abbiamo la prima comunità a modo di sperimentare, però quello che viene delineato al capitolo 6 è veramente un momento critico, un momento di passaggio molto delicato, dopo il quale il volto della comunità cristiana cambierà in modo significativo. Ecco, prima di entrare nella lettura di questo testo, vi invito a invocare insieme a me il dono dello Spirito Santo perché questa ora e mezza che condivideremo insieme sia proprio accompagnata da Lui e sia accompagnata dallo stile anche mariano di ascolto, accoglienza della parola, fino al punto che poi questa parola si trasforma in gesti, in concretezza di vita. Ascoltiamo allora questi 7 versetti su cui sosteremo questa sera. Invito chi ne ha la possibilità di prendere un'edizione della Bibbia o un'edizione del Nuovo Testamento per seguire il testo insieme a me. Comincio leggendo per intero questi 7 versetti, poi riprenderemo le 3 parti in cui il racconto si snoda. In quei giorni, poiché aumentava il numero dei discepoli, sorse un malcontento in quelli di lingua greca verso quelli di lingua ebraica, perché le loro vedove nel servizio quotidiano venivano trascurate. Allora i 12, convocata l'assemblea dei discepoli, dissero: «Non è giusto che noi trascuriamo la parola di Dio per servire alla mensa. Scegliete piuttosto, fratelli, in mezzo a voi, 7 uomini di buona reputazione, pieni di spirito e di sapienza, che proporremo per questo incarico. Noi, invece, saremo perseveranti nella preghiera, e nel servizio della parola. La proposta piacque a tutta l'assemblea ed elessero Stefano, uomo pieno di fede e di Spirito Santo, Filippo, Procoro, Nicanore, Timone, Parmena e Nicola, un proselito di Antiochia. Li presentarono agli apostoli e dopo aver pregato, imposero loro le mani. La parola di Dio cresceva e a Gerusalemme si moltiplicava grandemente il numero dei discepoli. Anche molti sacerdoti aderivano alla fede. Ecco, questo è l'episodio su cui stasera vogliamo soffermarci. Lo possiamo dividere in tre momenti. Il primo momento evidenzia un problema, il secondo momento la soluzione che i dodici suggeriscono per affrontare questo problema, il terzo momento il risultato della soluzione, che è un risultato efficace, cioè la soluzione porta alla soluzione della questione. Cerchiamo di capire questi tre momenti, cerchiamo di capire quali sono i nodi che vengono al pettine, come un momento delicato che rischiava di dividere, di spezzare in due la comunità viene affrontato e soprattutto come viene risolto. E vedremo come questi tre momenti in cui è scandito il testo abbiano effettivamente molto a dire ancora oggi alle nostre comunità cristiane. Cominciamo con il primo momento. Il primo momento è quello che evidenzia il problema. Rileggo un attimo il versetto. In un solo versetto Luca condensa la questione con cui si deve interfacciare la comunità di Gerusalemme. Scrive Luca: in quei giorni, poiché aumentava il numero dei discepoli, sorse un malcontento di quelli di lingua greca verso quelli di lingua ebraica, perché le loro vedove nel servizio quotidiano venivano trascurate. Allora notiamo che la comunità cristiana si trova a dover far fronte ad alcune questioni, ad alcuni dati oggettivi. Prima di tutto aumenta il numero dei discepoli. Oramai non siamo più nell'orizzonte del migliaio o del centinaio di discepoli. I discepoli hanno ormai superato le 3.000 unità, quindi la comunità è diventata una comunità che non è facilmente gestibile in tutto. Finché la comunità è piccola è facile formare, è facile accompagnare, è facile ascoltare. Man mano la comunità diventa grande, questo pone dei problemi, come seguire singolarmente le persone. Ora, in questo momento, che da un lato dice anche grande fecondità, perché l'aumento del numero è segno della benedizione del Signore, in questo momento sorge un malcontento di quelli di lingua greca verso quelli di lingua ebraica. Che cosa è in questione? Luca ci vuole dire che la comunità di Gerusalemme, proprio perché aumenta di numero, non si può ritrovare tutte in un unico luogo. Probabilmente i fratelli della prima comunità cristiana si radunavano in case diverse in base alla loro provenienza. In base alla loro provenienza la comunità poteva essere distinta in due grandi gruppi principali. Quelli di lingua ebraica, quindi gli ebrei che si erano convertiti al cristianesimo, che avevano probabilmente sempre vissuto nell'orizzonte di Gerusalemme e quindi avevano un certo radicamento nella tradizione ebraica, e quelli di lingua greca, cioè quelli che pur essendo ebrei provenivano con molta facilità dai territori della diaspora, dove la lingua ebraica si era andata un pochino sfilacciando e dove anche il radicamento nella tradizione era un pochino più lieve. Ora, non è solo una questione linguistica, è una questione anche di radicamento nella Terra Santa, nel territorio di Gerusalemme, nella tradizione giudaica. Ovviamente chi era di lingua ebraica aveva uno sguardo su quelli di lingua greca che venivano considerati sì degli ebrei in gamba, bravi, che si erano mantenuti fedeli nella tradizione pur in un territorio magari avverso per usi e costumi, che però, ecco, avevano perso un pochino di quella di quell'impronta originaria, di quell'identità originaria. Quindi c'era un certo sguardo per cui venivano considerati ebrei preziosi, ma forse non così doc, ecco, come potevano essere quelli di lingua ebraica. Quindi nasce all'interno della comunità cristiana una sorta di, come dire, discriminazione. Discriminazione non per forza voluta, però nel momento in cui ci sono delle emergenze è ovvio che quelli di Gerusalemme favoriscano prima di tutto le loro chiese domestiche, le chiese domestiche dove si radunano quelli originari di Gerusalemme, che sono sempre stati a Gerusalemme o nella Giudea e che osservano in tutto le tradizioni, lasciando invece da parte in un secondo momento quelli di lingua greca. E le prime persone che vanno di mezzo in questo contesto sono le vedove. Sapete, le vedove insieme agli orfani erano tra le categorie più povere del tempo, perché non potevano provvedere a se stesse, non avendo un lavoro o, nel caso degli orfani, essendo troppo piccoli per lavorare. Allora, in questo caso o c'era una comunità che li sostentava attraverso la carità quotidiana o l'assistenza quotidiana, oppure queste persone erano veramente lasciate a se stesse, rischiando a volte della propria vita. Nel contesto delle prime comunità cristiane, la comunità si faceva carico delle vedove, che allo stesso tempo svolgevano dei servizi all'interno della comunità. Ora, in momenti difficili, e noi sappiamo che quando l'autore degli Atti degli Apostoli scrive e parla della comunità di Gerusalemme, ha in mente anche dei momenti vissuti duramente dalla comunità di Gerusalemme, che è passata per prove come la persecuzione, la carestia. Ora, in questi momenti difficili non si riesce ad arrivare a tutti, e quindi chi è che vengono, qual è la categoria di persona che viene trascurata? Sono le vedove di coloro che provengono dal mondo della diaspora. Venivano trascurate, non vengono eliminate, non vengono lasciate da parte, ma vengono trascurate, cioè vengono trattate con non alla pari delle vedove di coloro che sono di lingua ebraica. Quindi è in questo contesto che si manifesta un problema che è dovuto quindi a diversi fattori. All'aumento del numero dei discepoli, quindi non c'è più pane per tutti, potremmo sintetizzare, al fatto che si aumentano le differenze legate all'identità di questi discepoli. C'è una corrente che proviene dal giudaismo, l'altra che proviene da un giudaismo più, come dire, più inculturato nell'ambiente della diaspora, e poi c'è la questione del femminile. Alcune donne, soprattutto le più deboli, le vedove, vengono trascurate. Elementi che dicono queste piccole tensioni noi li respiriamo già all'interno del Vangelo durante il ministero pubblico di Gesù, quando notiamo che i discepoli fanno fatica ad accogliere certe categorie di persone, fanno fatica ad andare negli ambienti della diaspora, fanno fatica ad accogliere le donne nel discepolato accanto al loro maestro, e si evidenziano alcune tensioni, come pure fanno fatica ad ampliare quello che è l'orizzonte dei discepoli di Gesù, tendendo a, come dire, a un cammino limitato in un certo senso al gruppo dei dodici o a chi era strettamente vicino a loro, mentre Gesù spinge sempre nell'altra direzione, spinge all'accoglienza di coloro che stanno all'altra riva, spinge alla valorizzazione della figura femminile, spinge all'aumento del numero dei discepoli, non ponendo dei limiti a quella che era la scuola che lui aveva istituito. Quindi questi elementi noi li ritroviamo già nel Vangelo, ma emergono in modo forte all'interno della comunità cristiana, dove a un certo punto le tensioni tra quelli che provengono dal mondo ebraico e quelli che provengono dagli ambienti della diaspora si farà più accesa, perché comporterà delle risposte diverse ad alcuni usi e costumi. Quindi questo è il problema. Come il problema viene affrontato? Allora ascoltiamo i versetti successivi, ma prima di farlo lasciamo un breve stacco musicale in modo che ciascuno ha modo di rileggere un attimo il versetto 1 del capitolo 6 e poi gustare quella che è la risposta che i 12 daranno alla questione. Quindi un breve stacco musicale, poi riprendiamo la nostra riflessione. Quindi abbiamo evidenziato il problema, vediamo come si suggerisce una soluzione a questo problema. Leggiamo i versetti successivi. Allora i 12, convocata l'assemblea dei discepoli, dissero: non è giusto che noi trascuriamo la parola di Dio per servire alla mensa. Scegliete piuttosto, fratelli, in mezzo a voi, 7 uomini di buona reputazione, pieni di spirito e di sapienza, che proporremo per questo incarico. Noi invece saremo perseveranti nella preghiera e nel servizio della parola. Allora, notiamo il modo interessante in cui viene proposta la soluzione, perché noi in questo testo abbiamo dei criteri che sono fondamentali, fondamentali per le nostre comunità cristiane, le nostre comunità religiose, i nostri ambienti di vita. Prima di tutto i 12 convocano l'assemblea dei discepoli, non è una decisione che piove dall'alto, è una decisione che nasce dal confronto con il terreno, dal confronto con la realtà, dove tutti hanno modo di far sentire la loro voce, o perlomeno i rappresentanti di tutti, qui hanno possibilità di esprimere il loro parere, sia quelli di lingua greca, sia quelli di lingua ebraica, sia le vedove stesse, i 12 convocati all'assemblea dei discepoli. Ecco, è quello che abbiamo sperimentato anche in queste 2 settimane e in occasione del sinodo straordinario sulla famiglia. E anche sulla scelta finale del Santo Padre, quando ha detto ok, mettiamo a disposizione di tutti quella che è la relazione finale del sinodo con le votazioni addirittura, placet e non placet, in modo che tutti si rendano conto di quello che si sta muovendo all'interno della Chiesa. Quindi la prima soluzione è quella: mettiamoci insieme ascoltandoci vicendevolmente. Primo elemento. Secondo elemento di soluzione, i 12 fanno un mea culpa. Dicono: non è giusto che noi trascuriamo la parola di Dio per servire alla mensa. È significativo questo. Si parte con il riconoscimento di un errore che c'è stato. Là dove c'è malcontento, là dove lo spirito nemico si è infiltrato, è perché qualcuno ha lasciato una fessura. E allora, la prima cosa da fare è riconoscere che lì c'è la fessura, per vedere se quella fessura va coperta col mastice oppure bisogna mettere una bella mano di cemento per coprirla bene, oppure da quella fessura bisogna fare una finestra, cioè bisogna capire il tipo di soluzione. E qui i 12 evidenziano: trascurare la parola di Dio per servire alla mensa non è giusto, perché rischierebbe di far venire meno quel punto centrale nel cammino della comunità, che è la parola di Dio, dove Dio esprime il suo dire. Terzo elemento di soluzione: scegliete piuttosto, fratelli, in mezzo a voi 7 uomini di buona reputazione. Scegliete. Notate, i 12 non tolgono la responsabilità alla comunità che hanno davanti, ma invita la comunità a trovare lei una soluzione al problema. Spesso quando ci sono dei problemi all'interno della comunità, la comunità cosa fa? Si pone in una posizione per cui aspetta che il responsabile, il parroco, il superiore, il provinciale, la madre, chi più ne ha più ne metta, cioè l'altro decida, prendendo posizione verso uno contro un altro. No, vedete come fanno i 12. I 12 dicono: scegliete voi, il problema emerge da qui. Prima di tutto ascoltiamoci, riconosciamo dove c'è la fessura e poi scegliete, lasciate voi che vivete questo problema, proponete voi una soluzione. questa soluzione però deve avere una caratteristica. I sette uomini di buona reputazione devono essere pieni di spirito e di sapienza, cioè devono essere persone che portano dentro di sé l'impronta del discernimento divino. Ieri nella liturgia ambrosiana, scusate se a volte faccio l'esempio della liturgia ambrosiana, ma io sono nel territorio, la mia comunità, la comunità paolina Ticinisello Balsamo, è inserito nel territorio ambrosiano, no? E ieri nella liturgia ambrosiana si celebrava la dedicazione del Duomo di Milano ed era interessantissima la lettura che la liturgia ci proponeva come prima lettura, no? Tratta dal libro di Baruch, che iniziava con una domanda, diceva: quanto è grande la casa di Dio? E l'autore, Baruch, il segretario di Geremia, rispondeva mostrando subito che la casa di Dio non sono le mura del Duomo, anche se Milano ha il Duomo, ha una delle cattedrali più belle di tutta Italia, però la casa di Dio non si limita a quello, no? Baruch fa subito capire che la casa di Dio è grande come il cielo, è spaziosa come la terra e ha tutte le sue origini, non sono del 1200, del 1300, del 600, ma ha tutta la storia, da quando c'è l'umanità, quella è la casa di Dio, e sono i tempi della casa di Dio. E poi Baruch va avanti, dice: chi è che può governare questa casa di Dio? E lui dice: agli origini c'erano i giganti, famosi per i loro prodigi, ma loro Dio non li guardò perché erano stolti. A chi invece volse lo sguardo il Signore? A colui a cui donò la sapienza, a Giacobbe. E menziona Giacobbe, che in altri testi viene chiamato vermiciattolo di Israele, no? Quindi il Signore che posa il suo sguardo e dona la sua sapienza al più piccolo, non ai giganti, al più piccolo, che con un percorso travagliatissimo, conosciamo tutti il percorso di Giacobbe, un percorso travagliato, vive l'esilio, è costretto a fuggire da suo fratello perché l'ha trattato male, viene imbrogliato dopo aver imbrogliato lui, viene imbrogliato dallo zio Labano, dopo l'esilio vive la fatica del ritorno, una famiglia disastrata perché più ogni suo figlio è un problema. Eppure, grazie alla sapienza che gli viene data da questa famiglia, nasce la casa di Dio, il popolo di Israele. Popolo di Israele da cui poi nascono e trovano punto di riferimento tutti i popoli della terra. Ora, su che cosa si regge la formazione della casa di Dio secondo Baruch? Dal dono di questa sapienza data al più piccolo, a Giacobbe. Ora, la soluzione che i 12 propongono va sulla stessa lunghezza d'onda, scegliere 7 uomini, 7 è il numero che dice anche un pochino la completezza, è un numero simbolico, probabilmente esisteva già nel primo secolo una forma di istituzione che faceva riferimento a 7 uomini come giudici di una comunità, come responsabili di un nucleo abbastanza numeroso di persone. Quindi 7 uomini pieni di spirito e di sapienza che proporremo per questo incarico. Poi conclude dicendo: noi invece saremo perseveranti nella preghiera e nel servizio della parola. Anche questo è prezioso, cioè i 12 sono consapevoli che i problemi che nascono all'interno della comunità non sono dovuti solo alla testa calda di qualcuno, ma sono dovuti al fatto che in quella comunità Dio non è sufficientemente presente. Quindi è necessario preghiera ed è necessario il servizio della parola. Cosa significa servizio della parola o diaconia tu logu, la diaconia della parola, cosa significa? È l'azione formatrice, non basta crescere di numero, se quel numero non viene formato siamo punto a capo, cioè quel numero rischia di essere sì numeroso, però poi fa acqua da tutte le parti, è quello che succede spesso in molte realtà, in molte congregazioni religiose, una volta che scompare il fondatore. Morto il fondatore viene a mancare quel punto di riferimento per la spiritualità e la missione, quel punto di riferimento per la formazione, per cui magari il numero aumenta pure, però il numero di quanti aumentano hanno perso quel punto di riferimento che è certezza anche di una certa formazione, e quindi sì, come dire, lo slancio iniziale viene pian piano meno e c'è bisogno di una ripresa di tutto questo. Ora, la soluzione che viene data dai 12 è quindi lineare, chiara. Convocano l'assemblea, quindi il coinvolgimento di tutti, l'ascolto di tutti, riconoscono, guardano e riconoscono dov'è il limite, non è giusto che noi trascuriamo la parola di Dio, invitano alla responsabilità la base, scegliete o fratelli in mezzo a voi 7 uomini di buona reputazione, assicurano la presenza dello Spirito, devono essere pieni di Spirito e di sapienza, e assicurano il loro impegno. Noi saremo perseveranti, proscarpereo è il verbo che viene utilizzato, che non dice solo custodi, ma è molto di più, è la perseveranza tenace, perseveranti nella preghiera e nella diaconia della parola e nel servizio della parola. Quindi su questi fondamenti la comunità potrà in qualche modo ripartire. Ora, questi principi sono gli stessi principi, teniamolo ben presente, che le nostre comunità hanno bisogno di tenere presente oggi. Nel momento in cui in una comunità cristiana ci sono problemi di diversa natura, pensate a volte a quelli che possono essere i conflitti che si vengono a creare tra un gruppo e l'altro, ma io sono della Caritas e io sono del movimento missionario, ma io sono del coro dei bambini e io sono della corale, no, ma io sono delle ACLI e io sono per i problemi sociali. Ecco, a volte all'interno di una comunità cristiana ci sono tanti gruppi, tanti gruppuscoli, movimenti, e non si riesce a integrare, c'è tensione, uno dà preferenza all'uno invece che all'altro. Ecco, di fronte a queste cose Luca, delineando le origini della comunità cristiana, offre quelle che sono le vie di uscita, i criteri di discernimento di tutto questo, impostandoli sull'importanza di un ascolto vicendevole, la centralità della parola di Dio, la scelta di guide che siano persone che cercano di capire le cose alla luce dello Spirito e alla luce della sapienza che viene dall'alto, perché non basta una soluzioni che vengono dall'intelligenza e dalla razionalità. Soluzioni intelligenti e razionali possono essere date, ma da chiunque abbia un minimo di senno, ma qui questo non basta, occorre capire ciò che vuole Dio, ciò che vuole Dio, e spesso ciò che vuole Dio è irrazionale, non segue i criteri della ragione in senso stretto, richiede quella dose di rischio, quella capacità di vedere oltre che la semplice ragione o intelligenza non permettono a volte di vedere, e soprattutto garantire quella perseveranza nella preghiera e nella diaconia della parola che viene ribadita dai 12. Ecco, notiamo in questa soluzione come i 12 restano al centro, I 12 restano al centro, ma con un'autorità che è autorevolezza sulla comunità, Non è autoritarismo, proprio, e lo si nota proprio dalla capacità di coinvolgere la base, di farla diventare soggetto in questo momento di difficoltà. Ecco, lasciamo ancora un breve spazio musicale in modo che possiamo riprendere questi 3 versetti che abbiamo commentato insieme, poi vedremo come da queste indicazioni maturi una soluzione sorprendente. Allora, un breve stacco musicale, poi continuiamo la nostra riflessione. Allora, dalle indicazioni che vengono dai 12, cosa matura? Ci viene detto nei versetti 5 e 6, leggiamoli. La proposta piacque a tutta l'assemblea ed elessero Stefano, uomo pieno di fede e di Spirito Santo, Filippo, Procoro, Nicanore, Timone, Parmena e Nicola, un proselito di Antiochia. Li presentarono agli apostoli e, dopo aver pregato, imposero loro le mani. Allora, notiamo come la proposta che viene fatta dai dodici incontra successo, perché tutta l'assemblea è d'accordo e da qui nasce l'indicazione dei sette uomini che erano stati indicati. Quello che sorprende è che questi sette uomini sono tutti di provenienza dai giudei di lingua greca, cioè non ce n'è nessuno qui che proviene dai giudei di lingua ebraica. Stefano, Filippo, Procoro, Nicanore, Timone, Parmena e Nicola hanno tutti nomi greci e gli studiosi si chiedono come mai la comunità cristiana non ha voluto inserire al suo interno delle persone di lingua ebraica. In fondo la soluzione risolve il problema delle vedove, perché sicuramente sette persone che provengono dal mondo greco sono molto più sensibili ai problemi loro che non quelli che provengono dal mondo ebraico, quindi risolve il problema, ma non risolve la distanza tra le due comunità, perché se si era creata questa discriminazione forse c'era bisogno di figure da ponte. Ora, chi rimane come figura da ponte? Le figure da ponte che rimangono in scena sono i dodici, sono loro che fanno da ponte. Allora, cosa sta succedendo nella prima comunità cristiana? Sta succedendo quello che in Nuce, quando erano solo un gruppo di 120 persone, faceva Maria, cioè il compito di Maria, la madre di Gesù, all'inizio della prima comunità cristiana, qual era? Era quella di essere la grande figura di mediazione che tesseva unità e formava i dodici, i fratelli di Gesù e le donne. Ora qui questo ruolo, più si va avanti nel tempo, più viene assunto dai dodici. I dodici oramai sono stati formati da Maria, diventano a loro volta coloro che tessono l'unità all'interno della comunità, tra quelli di lingua ebraica, quelli di lingua greca e in questo caso le vedove che rischiano di essere trascurate. È un po', come dire, i tre gruppi che vengono a espandersi e quella che era l'azione che inizialmente faceva Maria viene ora assunta dal gruppo dei dodici. In questi nomi noi troviamo dei nomi importantissimi nel racconto degli Atti degli Apostoli, perché qui il lettore non lo sa ancora, ma andando avanti nella narrazione ci rendiamo conto che i nomi che vengono fatti qui giocheranno un ruolo chiave di apertura della comunità cristiana verso orizzonti inattesi. Il primo ad aprire, ad avere un ruolo chiave è Stefano. Stefano, lo vedremo il mese prossimo, è colui che con la sua parola e con la sua tenacia scandisce la prima grande separazione della comunità cristiana, o meglio apertura della comunità cristiana dal mondo strettamente ebraico, perché Stefano è colui che rompe in un certo senso con una comunità cristiana che era ancora ancorata, abbarbicata al Tempio di Gerusalemme. Con Stefano si crea una sorta di rottura radicale per il suo modo di predicare, per le sue parole. Seconda persona significativa è Filippo. Filippo lo troveremo nel momento in cui c'è l'apertura al mondo dei Samaritani, non solo al mondo dei Samaritani, ma al primo eunuco, cioè al primo pagano vicino al mondo ebraico. Quindi anche qui c'è una sorta di strappo che avviene con questa seconda figura scelta, che è lo strappo con Gerusalemme o con il mondo strettamente giudaico, quel mondo strettamente giudaico che in un certo qual modo è difeso da quelli di lingua ebraica. E infine c'è una terza figura che segna uno strappo, è Nicola, questo Nicola che è l'unico dopo Stefano a ricevere una definizione, perché di Stefano viene detto uomo pieno di fede e di Spirito Santo. Poi degli altri vengono menzionati, viene ricordato solo il nome, e poi si arriva a Nicola dicendo che è un proselito di Antiochia. Chi erano i proseliti? I proseliti erano i pagani che avevano aderito al giudaismo. ma che sono di provenienza pagana, punto. Altro che lingua greca o lingua ebraica, qui c'è addirittura uno che proviene da un mondo pagano. Ora, questo Nicola rappresenta già un'apertura su quell'Antiochia che sarà la chiesa madre della cristianità che si apre al mondo pagano successivamente, quindi, e che sarà la seconda grande chiesa madre nella storia delle origini cristiane. Accanto a Gerusalemme sappiamo che a un certo punto si aprirà la realtà della chiesa madre di Antiochia. Quindi vengono menzionate sette persone, dicendo già che queste sette persone che vengono scelte sono persone che porteranno la comunità a un discorso di apertura che comporterà degli strappi al suo interno. L'assemblea cosa fa? Li presenta comunque agli apostoli che dopo aver pregato imposero loro le mani, anche questo è significativo. L'imposizione delle mani non è automatica, non è che perché sette persone sono state scelte e allora su queste persone vengono imposte le mani. C'è uno spazio intermedio che è lo spazio del discernimento, dopo aver pregato. Quello che i dodici chiedono alle persone scelte di essere piene di spirito e di sapienza è ciò che loro vivono. Perché il fatto che si raccolgano in preghiera prima di imporre le mani è segno che si vogliono porre in sintonia con quello spirito, ecco, di cui, per il quale, ecco, vogliono avere una certa garanzia all'interno della comunità. E il gesto, quello dell'imposizione delle mani, lo sappiamo, non è solo un gesto di benedizione. Nel momento in cui c'è un'imposizione delle mani nell'Antico come nel Nuovo Testamento, viene trasmesso un servizio, un potere, un ministero, viene comunicato addirittura il dono dello Spirito Santo, il dono di Dio. Quindi di questa trasmissione si fanno garanti all'inizio nella storia delle origini proprio i dodici. È interessante osservare una cosa. Quando queste sette persone vengono scelte, a loro i dodici attribuiscono un ruolo ben preciso attraverso le parole di Pietro. Aveva detto all'assemblea: scegliete in mezzo a voi sette uomini pieni di reputazione, pieni di spirito e di sapienza che proporremo per questo incarico. Qual era l'incarico? L'incarico era servire le mense, perché all'altro discorso, cioè al servizio della parola e alla preghiera, si riservano, si dedicheranno i dodici. Cosa succede però? Se voi andate a leggere con attenzione gli Atti degli Apostoli, notate che queste persone non li troverete mai a servire le mense, mai. Li trovate sempre, soprattutto Stefano e Filippo, li troviamo subito nell'annuncio, nel servizio della parola. Questo cosa ci dice? Ci dice che quando una persona viene affidata allo Spirito Santo, lo Spirito Santo ne fa quello che vuole. I dodici possono avere ben i loro criteri in testa per dire: ok, io ti scelgo, ti affido questo, questo e questo, mentre io mi riservo quest'altra cosa. Però se lo Spirito ha come dire, altri progetti, la storia prende un'altra direzione, e allora quelle persone che sembravano essere incaricate del servizio della mensa diventano quelle che non solo si dedicano al servizio della parola, ma a quella parola che si manifesta dirompente e che fa fare dei salti da gigante alla prima comunità cristiana, mentre questa parola paradossalmente, per i motivi più diversi, viene tolta ai dodici. Noi lo vedremo. O per la persecuzione o a motivo delle opposizioni che incontrano, i dodici vengono per certi aspetti imbavagliati, non riescono più a rendere quel servizio che rendono nei primi capitoli con i lunghi discorsi, ma questi discorsi passano ad altre persone, ad altre persone che nei capitoli successivi saranno proprio questi sette, due soprattutto di loro, Stefano e Filippo, a cui seguirà dal capitolo 15 in poi anche la figura di Paolo, che non rientra ovviamente nel gruppo dei 12, almeno così in un primo momento. Questo ci fa capire che essere pieni di fede e di Spirito Santo significa seguire a volte degli orizzonti che sono diversi da quelli che uno si immagina. Qual è la conclusione di questo racconto? La conclusione di questo racconto, anche questa è molto significativa, perché il versetto 7 la incide in poche battute. La parola di Dio cresceva e a Gerusalemme si moltiplicava grandemente il numero dei discepoli. Poi c'è un piccolo inciso, anche molti sacerdoti obbedivano alla fede. Cosa vuol dire questo versetto che fa da sintesi al discorso che abbiamo fatto questa sera? Prima di tutto ci fa capire che aumenta il numero dei discepoli, quindi continua a crescere il numero della comunità, ma questo crescere del numero della comunità non è più un problema, perché? Perché anche la parola di Dio cresceva. E allora, se cresce la comunità e cresce anche la parola di Dio, la comunità è al sicuro. Il problema è quando i fratelli si moltiplicano, ma non cresce la parola. Se non cresce la parola e i fratelli si moltiplicano, cosa succede? Succede che lo spirito nemico si infiltra per quelle fessure e allora all'interno della comunità si perde la logica divina e quindi cominciano a nascere divisioni, tensioni che devono essere affrontate. Poi c'è l'inciso, anche molti sacerdoti obbedivano alla fede. Questo inciso prepara il discorso successivo, perché nel momento in cui i rappresentanti del Tempio aderiscono alla proposta cristiana, rileggendo quindi il loro stesso servizio al Tempio, non buttandolo via, ma rileggendolo, questo comincia a creare problemi e prepara la seconda grande ondata di persecuzioni, che vede attivi il gruppo dei sacerdoti unito all'orizzonte dei farisei e che prenderà di mira non solo alcuni cristiani, ma gli stessi 12. Vedremo come a un certo punto la vita stessa dei 12 comincia ad essere in pericolo e bisogna scappare. Tutto questo è provocato dal fatto che l'adesione di alcuni sacerdoti comincia a porre degli interrogativi su come viene vissuta l'istituzione del Tempio, ma questo è un discorso che approfondiremo la volta prossima. Quindi cosa possiamo attingere da questo capitolo 6, da questi 7 versetti che abbiamo commentato insieme questa sera? Primo aspetto è la comunità cristiana che siamo stati abituati a vedere da un punto di vista idilliaco nei primi 5 capitoli, fatto salvo il capitolo 5 dove si parlava di Anania e Saffira, questo idillio è un idillio molto concreto. Anche la comunità cristiana ha le sue fatiche e queste fatiche hanno soprattutto a che fare con il rischio della trascuratezza della parola di Dio e le tensioni tra gruppi diversi. Di fronte a questo, i 12 sono l'esempio, il modello di un modo giusto di affrontare le situazioni. E il modo giusto di affrontare le situazioni è convocare l'assemblea, quindi mettersi in un atteggiamento di ascolto dove tutti possano esprimere il loro pensiero, evidenziare il punto di fessura che rischia di mettere in difficoltà la prima comunità cristiana, e poi scegliere, dare una soluzione che sia il più possibile adeguata ad assicurare la presenza dello Spirito e della parola di Dio all'interno della comunità. Infine, il terzo elemento che merita di essere custodito nel cuore è proprio la soluzione che viene proposta, la soluzione che è nelle mani dell'uomo e dei 12, che sono coloro che alla fine decidono, dopo la preghiera, di imporre le mani, ma allo stesso tempo sfugge da loro, perché ciò che loro vorrebbero affidare a questi 7, cioè il servizio delle mense, alla fine non è quello che lo Spirito vuole affidare a loro, e quindi lo Spirito si servirà di queste 7 non solo per l'annuncio della parola, ma anche per, come dire, spezzare quella corazza che ancora protegge la comunità cristiana di Gerusalemme, per aprirla a nuovi orizzonti, all'orizzonte dei samaritani, all'orizzonte dei proseliti, all'orizzonte del mondo pagano, attraverso quella chiesa ponte che diventerà una grande, un'altra grande chiesa madre del cristianesimo delle origini, che sarà appunto la chiesa madre di Antiochia. Ecco, cari fratelli, cari ascoltatori, quello che questi sette versetti ci possono dire. Lascio ora la parola a voi. Sulla base di questi sette versetti, probabilmente anche nel vostro cuore sono maturate riflessioni, domande, desideri di approfondire una cosa piuttosto che un'altra. Cerchiamo di dare spazio a tutto questo nella seconda parte della nostra trasmissione. Ora la regia vi dirà, vi darà indicazioni per contattarmi in modo che ognuno di voi possa esprimere in modo breve e aderente al tema la propria riflessione, e così continueremo la nostra lezione su questo brano, approfondendo quel cristianesimo delle origini a cui tutti siamo debitori. Pronto, buonasera, con chi parlo? Buonasera, sono Giuseppe da Reggio Calabria. Volevo chiedere, l'imposizione delle mani da parte degli apostoli sui sette è una vera ordinazione diaconale? Perché mi pare che qualcuno ha messo in dubbio questo discorso, nel senso che quelli non sarebbero poi dei diaconi come li si intende oggi, i diaconi. La ringrazio. Buonasera. Grazie Giuseppe per il tuo quesito, per la tua domanda. Effettivamente noi dobbiamo fare molta attenzione a sovrapporre quelle che sono i ministeri odierni con quello che troviamo all'interno dei testi neotestamentari. Perché? Perché la comunità cristiana è andata lentamente assumendo, come dire, il suo volto definitivo, no? Per cui quella che è l'imposizione delle mani è sicuramente la comunicazione, la partecipazione di un ministero importante all'interno della comunità cristiana, e da lì poi è nata tutta l'applicazione a quello che sarebbe diventato il diaconato. Ma non è che le persone che vengono scelte vengono istituiti diaconi nel senso che noi intendiamo oggi. Ecco, sappiamo che il primo padre della Chiesa che ha riletto questo brano come, come dire, radice di quella che è l'ordinazione diaconale è stato Ireneo di Lione, e ne parla proprio in uno dei suoi testi, il testo che lui scrive contro le eresie. Tuttavia, stando agli Atti degli Apostoli, non vediamo mai questi sette svolgere il servizio dei poveri o amministrare i beni della comunità, che erano ad esempio due elementi che caratterizzeranno il diaconato dei primi secoli della Chiesa, ma li vediamo sempre a predicare il Vangelo, quindi soprattutto dediti alla diaconia tu logu, che invece gli apostoli si erano riservati a sé. Quindi questo per dire, noi dobbiamo stare attenti ad applicare i ministeri odierni alle pagine del Nuovo Testamento, perché c'è tutto uno sviluppo nella storia, e quindi quello che noi abbiamo ereditato in nuce certamente c'ha le pagine dell'Antico e del Nuovo Testamento, ma poi porta con sé anche la ricchezza di una tradizione, di una storia che ha approfondito tutto questo. Certamente va detto che il gesto dell'imposizione delle mani era un gesto che attribuiva, non dava solo un incarico qualunque, ma comunicava qualcosa di più, tanto vero che la garanzia che i dodici vogliono è la presenza dello spirito e della sapienza, e quell'imposizione delle mani non viene fatta alla leggera, viene fatta dopo aver pregato, per cui quei sette hanno un ruolo davvero importante, davvero significativo. Grazie Giuseppe per il tuo quesito. Pronto? Padre Giacomo? Sì, sono io, con chi parlo? Sono Alberto da Imperia. Mi dica, signora Alberto. Avrei una domanda e una contestazione da farle. Prego, dica. Posso incominciare? Certo. Allora, io mi aspettavo stasera, questa non è la contestazione, mi aspettavo che stasera lei parlasse anche di Mosè e di Jethro, che è simile a quello che è successo con i sette diaconi, cioè che Jethro consiglia a Mosè di nominare 100 persone che si occupassero del popolo, dei capi di centinaia e capi di 50. Certo. Ha capito? Certo che ho capito. Poi, la mia contestazione è questa, che mesi fa, io ascolto spesso le sue catechesi, un ascoltatore mi disse che, sempre parlando degli Atti degli Apostoli, che la glossolalia le disse che non era glossolalia quella che parlavano gli apostoli, ma ci sono la Bibbia di Gerusalemme e la Bibbia di Tom, tradizione ecumenica della Bibbia, parlano di glossolalia, cioè del parlare in lingue e glossolalia. L'ascolto per radio. Grazie, padre Giacomo. Grazie mille, signor Alberto, per i suoi due interventi. Io non li prendo come contestazioni, ma proprio come arricchimento, no, della nostra trasmissione, e sono proprio tali le sue due sottolineature. Quindi la ringrazio. Prima di tutto il primo richiamo. Lei dice: mi aspettavo che lei parlasse di Mosè. Effettivamente ha ragione, più volte dico che i testi del Nuovo Testamento, il primo orizzonte interpretativo di questi testi, cioè il primo modo per approfondirli, è proprio attingere ai brani dell'Antico Testamento, no? E una delle scene importanti per capire il brano di oggi è proprio quella citata dal nostro Alberto. Lui cita un momento all'interno del ministero di Mosè, quando Mosè non ce la fa più a seguire il popolo, perché tutti si rivolgono a lui per alcune questioni intrafamiliari, e Jethro gli dice: ma tu non puoi portare da solo la fatica di tutto questo popolo, circondati di persone sagge che possano con te risolvere le questioni, da te verranno solo per le questioni più importanti. Quindi questo è uno dei brani dell'Antico Testamento che possono effettivamente illuminare la scena attuale. Ora, in questo caso, nel caso della scelta dei sette, non viene attribuito un potere di giudicare, ma è in questione il servizio all'interno della comunità. E questi sette si rivelano a un certo punto, guidati dallo Spirito Santo, addirittura più coraggiosi e lungimiranti rispetto ai dodici, quando spezzeranno appunto quei confini, quella sorta di corazza che la comunità cristiana di Gerusalemme ha costruito attorno a sé. Quindi, diversamente dai giudici istituiti al tempio di Mosè, i sette hanno un ruolo, come dire, da protagonisti, al pari quasi dei dodici, al punto tale che spingeranno la comunità cristiana in scelte e in orizzonti che i dodici non intendevano, non capivano agli inizi. Questo non per sminuire i dodici, ma per far capire come la storia delle origini cristiane è una storia dove lo Spirito rende tutti protagonisti e dove uno illumina l'altro. È tanto vero che una delle sottolineature forti di Luca, questo è tipico del racconto lucano, è che l'apertura al mondo pagano, l'apertura alle genti, è praticamente un'apertura che noi non riusciamo a capire da chi è stata fatta. Poi noi abbiamo eletto Paolo come apostolo dei gentili ed effettivamente lui svolge un enorme apostolato nel mondo pagano, ma non è lui che ha aperto la Chiesa al mondo pagano. Al mondo pagano la Chiesa è stata aperta da cristiani anonimi che in seguito alle persecuzioni hanno cominciato ad annunciare la parola di Dio, quindi non i dodici, non Paolo, ma da cristiani anonimi. Questo ci fa capire come chi è preso dallo Spirito Santo ha un ruolo da protagonista principale. La seconda questione che mi era posta era quella della glossolalia. Lui richiama il nostro ascoltatore, il nostro Alberto, richiama una delle, delle puntate precedenti era la puntata dedicata appunto alla Pentecoste, dove veniva trattata la questione del parlare in lingue. Il parlare in lingue, avevo sottolineato durante quella trasmissione dicendo che la glossolalia è la capacità di comunicare con l'altro, dove la capacità di comunicare non si esprime per forza di cose nel fatto di saper gestire tutte le lingue del mondo, non è quello, e soprattutto non si esprime in quell'usare delle lingue incomprensibili. A volte si confonde la glossolalia con un certo modo di parlare confuso. In questo io sono molto, molto paolino. Lo stesso San Paolo a un certo punto sul dono del parlare in lingue dice: attenzione, se il parlare in lingue permette la comprensione, è un dono dello spirito, allora c'è un interprete, l'interprete riesce a far capire quello che uno dice, e allora sì, è un dono dello spirito, ma se il parlare in lingue non ti capisce nessuno, va contro quello che è l'obiettivo dello spirito. L'obiettivo dello spirito è creare comunicazione, comunione, dialogo. La glossolalia, il dono dello spirito di Pentecoste, è quello che permette a tutti di parlare in modo che l'altro lo comprenda e all'altro di comprendere ciò che uno dice, e quindi di accogliere quello che era l'annuncio della salvezza. Quindi ciò che va contro questo principio di comunicazione, di comprensione, attenzione, perché potrebbe non essere un dono dello spirito. Quindi, caro Alberto, io volevo dire questo. Certamente la Bibbia di Gerusalemme e la Bibbia Tob non penso che vadano contro quello che era il mio intendimento, forse mi sono espresso male, quindi questo suo intervento ben venga. Grazie in ogni caso per le due sottolineature, perché come vede sono state molto preziose, grazie di cuore. Pronto? Sono Daniela da Bologna. Mi dica, signora Daniela. Io volevo domandare, cioè, visto che ha scelto questi sette, dice che diventeranno dei diffusori della parola, eccetera, ma allora le vedove bisognose, chi ci pensa? Se questi sette sono stati scelti, faranno, cioè, diventeranno dei... come dei diffusori della parola, cioè, ho capito. Diciamo che sta trascurato il problema iniziale. Sì, si pone lei, signora Daniela, si pone un problema pratico, perché dice: se poi questi sette che vengono scelti il Signore affida loro la diaconia della parola, bene, chi si occupa di queste vedove? Da un punto di vista logico, razionale, la sua domanda ci sta tutta, si può trovare una risposta molto sensata, no, al suo quesito, ed è la seguente: il fatto che venissero trascurate le vedove non era solo una questione di ordine pratico, ma era una questione di concezione della comunità cristiana, era lì che non andava, cioè fedeli di lingua ebraica in fondo avevano creato una sorta di scala all'interno della comunità, dove c'erano alcuni credenti, come dire, doc, e altri credenti che potevano essere un pochino trascurati, perché comunque venivano da esperienze che non erano così doc. Invece la risposta che viene data qual è? Prima di tutto la risposta è una risposta ugualitaria, perché tutti vengono messi sullo stesso piano, a tutti viene data la possibilità di parlare e i 12 trattano tutti come protagonisti, non creano una sorta di barriera tra uno e l'altro. Secondo, la priorità in questo momento di difficoltà è quello della formazione. La diaconia della parola non significa che questi tutto il giorno parlano e leggono la Bibbia, punto. La diaconia della parola è mostrare come la logica che ha accompagnato la storia della salvezza nell'antica alleanza e nella nuova alleanza sia efficace all'interno del popolo di Dio. E quindi apra il popolo di Dio anche una certa sensibilità verso i poveri. Chi è discepolo di Gesù non può non fare attenzione agli orfani, alle vedove, ai ciechi, agli storpi. Perché? Perché è la prima attenzione, i primi depositari del regno sono i poveri. Quindi è proprio perché Filippo, Stefano, Timone, Parmena, Nicola si dedicano alla parola che la comunità acquisisce un'altra sensibilità e quindi le vedove non vengono più trascurate. Lo vedremo anche nelle lettere apostoliche, la categoria delle vedove, degli orfani, di coloro che sono emarginati, sono sempre al centro dell'attenzione. Così pure la comunità di Gerusalemme quando vive la carestia, allora c'è questa sensibilità che invita tutti a dire ok, aiutiamo la comunità di Gerusalemme con la colletta, una grande preoccupazione dell'apostolo Paolo. Quindi la formazione è il primo modo che garantisce, come dire, le giuste soluzioni quando c'è una necessità. Ma se manca la formazione non basta, cioè anche quelle che sono le soluzioni di ordine pratico non risolveranno la questione, perché non riusciranno ad avere quella condivisione di fondo che solo una formazione iniziale può creare. E mentre parlavo mi veniva in mente un'altra applicazione, no? Che è legata alla scena della cacciata di Gesù dai venditori del Tempio. Perché faccio questa associazione? Capirete subito, quando nel Vangelo di Luca Gesù caccia i venditori del Tempio, viene detto che i sacerdoti e le autorità se la prendono con lui perché ha cacciato coloro che compravano e coloro che vendevano. Ovviamente chi comprava e vendeva non erano quelli che possiamo trovare oggi nelle bancarelle fuori da certi santuari, non era quelli, chi comprava e chi vendeva erano dei ministeri veri e propri, erano dei ministri che erano legati alle famiglie sacerdotali, non solo per motivi di carattere economico, certo c'erano quelli anche, ma per motivi anche di carattere di purità, cioè chi vendeva i colombi, gli agnelli, compriva un ruolo importante perché erano coloro che erano deputati a dare per i sacrifici delle garanzie di purità, quindi erano dei ministri veri e propri. Ora, questi, siccome sono più preoccupati del denaro che di altro, vengono cacciati e ci viene subito detto che entrano nel Tempio da Gesù ciechi e zoppi. E allora uno dice, come mai due categorie vengono cacciate e due categorie entrano? Ma perché nella tradizione del primo secolo i poveri, a partire dai ciechi e dagli storpi, non potevano entrare nel Tempio. I ciechi perché rischiavano di offrire degli animali impuri, siccome non ci vedevano. Gli storpi perché portavano iscritto nel loro corpo l'imperfezione, quindi non potevano accostarsi. Fateci caso, nel Nuovo Testamento quando Gesù incontra i ciechi o gli storpi, li incontra o alle porte del Tempio o fuori dal Tempio, perché non potevano accedere. Ora, i primi che possono accedere sono loro. E così anche la comunità cristiana, all'inizio dell'esperienza comunitaria i poveri vengono messi al centro e in questo caso qui, in un momento di grande svolta, questi poveri sono rappresentati dalle vedove. È un messaggio che fa parte di proprio tutto il ministero pubblico di Gesù, dove si manifesta in modo forte il suo magistero provocatorio fino ad oggi. Ci troviamo davvero confrontati con una parola che è eterna e viva e provocatoria fino ai giorni d'oggi. Grazie Daniela per la tua domanda. Pronto? Pronto? Buonasera, sì, padre. Buonasera. Sono Giulio di Salò, buonasera, grazie della sua bene, Giulio. Splendida relazione. La mia domanda specifica mi ha molto colpito un passaggio in cui lei parlava. Dopo aver ricevuto lo Spirito Santo, l'imposizione del dono dello Spirito Santo, mi ha molto colpito il passaggio in cui lei parlava della libertà, in qualche modo, dello Spirito Santo, cioè l'autorità, ovvero i dodici, dopo aver imposto loro le mani, è come se lasciasse poi che la storia evolva in, chiamiamolo così, anche per percorsi non pianificati, come quelli di cui lei accennava. La mia domanda è questa. Ed è anche riferita a una possibilità attuale della vita della Chiesa. una persona così investita dal dono dello Spirito Santo, in che modo garantisce poi l'unità con l'autorità della Chiesa? Quindi la domanda è riferita anche a loro. Queste persone, dopo il dono dello Spirito Santo, in che modo si mantengono in relazione, in unità con la Chiesa, affinché il dono dello Spirito Santo non sia semplicemente il motivo per, chiamiamolo così, per fare ognuno secondo suo piacimento, ma per garantire in realtà un'unità anche nella diversità. Grazie. Grazie mille Giulio, perché questa domanda è fondamentale, è importante, no? Effettivamente lo noteremo sempre di più andando avanti nel racconto degli Atti degli Apostoli. In questo fermento suscitato dallo Spirito diventa sempre più importante il riconoscimento di diversi ministeri, per cui ribadirà Paolo, no, nelle sue lettere, all'interno di un corpo ogni membro del corpo ha un suo ruolo: c'è la mano, c'è il piede, c'è la testa, c'è il cuore, però la mano non può dire al cuore: io voglio essere il cuore, ognuno ha il suo ruolo, e lo vedremo anche nel ministero di questi sette, perché nel momento in cui Filippo comincia a predicare ai samaritani e si trova tra l'altro confrontato con alcune realtà che lui rischia di gestire male, pensate al caso del mago con cui si troverà un pochino a confrontare, a un certo punto nelle città della Samaria arriva Pietro e Giovanni, e la visita di Pietro e Giovanni non è solo una visita canonica che va a visitare, vedere, verificare se le cose vanno nel verso giusto oppure no, ma è l'occasione per Filippo di confrontarsi con chi è depositario comunque di una responsabilità per la Chiesa universale. E lo stesso lo vedremo nel momento, in un altro grande passaggio delicatissimo della storia delle origini cristiane, che è quello del capitolo 15, quando all'interno delle diverse chiese nascono proprio delle correnti diverse che screditano la chiesa diversa, dove ad esempio Gerusalemme rischia, o almeno alcuni della chiesa di Gerusalemme, di non accettare alcuni atteggiamenti delle chiese paoline, e allora c'è questo momento grande di confronto a Gerusalemme nella famosa assemblea narrata al capitolo 15, dove Paolo, Barnaba, Pietro e i responsabili della Chiesa Madre di Gerusalemme si confrontano sulla questione della circoncisione. Anche lì è un momento di confronto forte. Il testo utilizzerà delle immagini anche molto forte per dire come questo accento, come questo confronto è decisivo, è forte all'interno della comunità cristiana, ma alla fine ecco c'è la disponibilità da parte di tutti a lasciare la parola dell'ultimo discernimento a chi ha la responsabilità su tutto questo. E pensate anche all'atteggiamento di Paolo durante tutto il suo ministero. Paolo ha una visione delle cose che è molto più aperta, cioè ha degli orizzonti molto diversi. Noi ho utilizzato il concetto di apertura, ma non è un concetto del tutto corretto, cioè ha una visione prospettica diversa da quella della Chiesa Madre di Gerusalemme, e a volte qualcuno che viene dalla Chiesa Madre di Gerusalemme fa problema a Paolo. Però fino alla fine Paolo vuole dimostrare che lui è in comunione con quella Chiesa, si confronta con quella Chiesa, vuole arrivare alla fine del suo ministero tornando in quella chiesa e parlando con Giacomo, che diventa poi quello che assume l'eredità di Pietro nella guida della Chiesa Madre di Gerusalemme. Perché? Perché c'è un riconoscimento delle diverse responsabilità, quindi è un pochino quello che garantisce il cammino e che poi nella storia della Chiesa è stato riconosciuto come il ministero petrino. Pensate, ho citato prima l'esempio, no, del sinodo, mi sembra che abbiamo qui una fotografia molto bella di come la pagina degli Atti degli Apostoli possa pur con i dovuti cambiamenti, eccetera, essere applicata oggi, no? La capacità da parte di tutti di confrontarsi, tutti hanno la possibilità di dire la loro, c'è uno spazio perché le grandi tematiche affrontate vengano ulteriormente approfondite, ognuno nel suo ambiente di vita, e poi ci si ritorna a confrontarsi, senza aver paura di dire le cose chiare e di arrivare anche a delle discussioni accese. L'importante poi è lasciare che lo spirito, ecco, conduca queste tessere all'unità, servendosi anche di colui che ha la responsabilità ultima, prima e ultima, su tutte queste, su quelle che sono le scelte più significative all'interno della comunità. Ma guardate, la bellezza proprio della comunità cristiana e del cammino cristiano è proprio il fatto che lo Spirito Santo non ha mai voluto, cioè l'unità voluta dallo Spirito è un'unità variopinta. Fin dalle origini non ci ha consegnato un Vangelo, ce ne ha consegnati quattro. E i carismi dello Spirito sono tanti, ma il frutto è uno solo e conduce questi carismi all'unità. Il frutto è l'amore che si riverbera poi nella gioia, nella pace, nella sapienza, in tutti gli altri doni, ma c'è questa varietà che caratterizza anche le comunità cristiane, dove i ministeri anche sono diversi, c'è chi ha il dono di insegnare, chi ha il dono di guarire, chi ha il dono della profezia, chi ha il dono di parlare in lingue, e ognuno di questi ministeri vanno all'unico obiettivo, edificare il corpo di Cristo, di quel Cristo che è tutto in tutti. Quindi grazie davvero Giulio per il tuo intervento che ha messo a fuoco uno snodo importante della nostra riflessione. Pronto? Pronto, sono Maria da Cagliari. Vorrei sapere l'imposizione delle mani, che cos'è, un sacramento? Oppure un sacramentale? Allora, la ringrazio, signora Maria. Come dicevo prima, noi dobbiamo fare attenzione a associare i testi biblici a quella che è il nostro modo di vivere la fede oggi. Noi abbiamo dei sacramenti all'interno della tradizione cristiana, che sono i canali privilegiati della grazia. Questi sacramenti hanno un loro radicamento biblico, ma non è che noi possiamo fare la trasposizione dei sacramenti nel momento della storia biblica. L'imposizione delle mani c'era molto prima che nascessero i sacramenti. Quindi non tutti i sacramenti includono l'imposizione delle mani. Però non per questo, l'imposizione delle mani, ripeto, può avere ha un significato che ha una valenza diversa in base ai contesti. In alcuni casi è trasmissione dello Spirito di Dio, quindi con un incarico ben preciso, che è un incarico di guida del popolo di Dio. In altri momenti l'imposizione delle mani è un semplice gesto di benedizione, di augurio, in altri momenti l'imposizione delle mani ha in sé la pregnanza di trasmettere anche una vocazione forte. Pensate al momento in cui i patriarchi trasmettevano ai loro discendenti l'eredità forte che avevano dentro di sé. Pensate alla famosa storia di Giacobbe ed Esaù, dove la benedizione del padre passa attraverso quel gesto dell'imposizione delle mani, che torna nella storia dei patriarchi, torna più volte, però ogni volta ha un ruolo diverso. In alcuni casi l'imposizione delle mani è anche cacciata dello spirito immondo, dello spirito nemico. Dire l'imposizione delle mani è un sacramento, sarei attento. Dipende dal contesto, dalla cornice, dal momento in cui questo gesto viene utilizzato. È vero che in alcuni sacramenti l'imposizione delle mani ha un ruolo chiave. cari ascoltatori, mi dicono dalla regia che purtroppo per alcuni motivi tecnici cadono le vostre telefonate e quindi non è più possibile, ecco, far intervenire voi ascoltatori nella nostra trasmissione. Per me è già importante ringraziare Giuseppe, Alberto, Daniela, Giulio e Maria che sono intervenuti, hanno potuto intervenire con le loro domande, perché come avete visto le domande ci permettono proprio di approfondire la nostra tematica, la nostra riflessione. E allora approfitto un pochino di questo spazio che ci rimane per sottolineare un aspetto, no, che in parte emergeva anche nelle domande che sono state sollevate, quello del dopo elezione di questi sette, veniva soprattutto sottolineato dall'intervento di Giulio, la libertà che lo spirito, cosa succede dopo che il problema viene risolto e i sette vengono scelti? Succede l'inedito, succede che la comunità cristiana di Gerusalemme è obbligata, e sono sicuro di non sbagliare verbo, è obbligata a cambiare la propria definizione, la propria identità. E questo ci interpella, cari ascoltatori, ci interpella come cristiani, perché nel momento in cui noi scegliamo qualcuno, qualcuno è scelto per la nostra comunità deve essere pronta a cambiare volto. Spesso quando in una comunità cristiana arriva un nuovo parroco, un nuovo pastore, un nuovo vescovo, si ha sempre timore. E la prima reazione che molti hanno è quando ognuno porta la propria impronta all'interno di quel servizio che gli è affidato è no, ma si è sempre fatto così, com'è che adesso si cambia, ma si è sempre fatto così? Ecco, la forza, l'azione dello spirito nella comunità cristiana delle origini e laddove lo spirito è vivo e operante è la novità. Non dimentichiamoci mai che noi portiamo nella nostra identità di cristiani una buona notizia, una buona novella, dove novella significa anche novità, una novità bella, e quindi capacità da parte di ciascuno di mettersi in discussione. E allora capiamo quello che è la chiusura del brano su cui abbiamo sostato oggi, dove si diceva che la parola di Dio cresceva e a Gerusalemme si moltiplicava grandemente il numero dei discepoli. Ecco, crescere, il crescere della parola di Dio è il crescere di una novità che spalanca sempre di più le porte di Gerusalemme. E qui permettetemi di agganciarmi ancora al recente sinodo delle famiglie, no? Perché quando si è aperto il 5 ottobre il sinodo delle famiglie, durante l'Angelus il Santo Padre ha fatto un gesto straordinario, perché ha invitato praticamente tutte le famiglie ad avere una Bibbia in casa, una Bibbia in ogni famiglia. Tra l'altro la Bibbia che lui ha mostrato dal balcone di San Pietro porta proprio incisa sulla copertina questa coppia in cammino con in mezzo il Signore, che sembra quasi ricordarci che il primo interprete delle scritture è proprio Gesù, un Gesù che è chiamato a camminare con le coppie, a camminare con quella che è il nucleo vitale delle famiglie, vale a dire assicurare nel cammino della comunità, assicurare nel cammino di quella che è la chiesa domestica la presenza della parola. Laddove la parola cresce, lo spirito può tessere la sua storia, laddove la parola diminuisce, lo spirito fa più fatica. E guardate, di questo noi troviamo conferma stupenda nella storia della Chiesa. Spesso noi dimentichiamo che le grandi svolte portate dai grandi santi sono spesso associati alla parola di Dio. Pensiamo al momento in cui compare sulla scena della storia una figura come quella di San Francesco. San Francesco ha rischiato grosso alla sua epoca, quando non era permesso avere i testi biblici o i testi anche solo dei Vangeli nella lingua volgare. Li leggeva nella lingua volgare, di nascosto, lingua volgare vale a dire nella lingua sua, non nella lingua antica latina, no? Ma li leggeva nella sua lingua e ha voluto porre come regola di vita di tutta la sua comunità il Vangelo tale quale, vissuto con radicalità, perché la vita fosse annuncio di quel Vangelo che nessuno aveva più l'abitudine di ascoltare o che era legato solo ad alcune categorie di persone, come i chierici o i religiosi e le religiose. Pensiamo anche al grande momento, di subbuglio che è stato quello della riforma e della controriforma. Anche lì al centro che cosa c'era? C'era ancora una volta la parola di Dio, una parola che aveva bisogno di tornare ad essere annunciata, proclamata, pur con tutti i rischi che si poteva correre, e la riforma e la controriforma mettono in evidenza le potenzialità e anche i rischi di tutto questo. Pensiamo al Concilio, il momento del Concilio Vaticano II è il momento in cui la parola torna nelle mani dei fedeli, e con una serie di iniziative stupende che evidenziano come questa parola sia al centro della comunità cristiana. E non a caso, pensate, lo stesso Concilio è accompagnato da un'iniziativa che è molto simile a quella del 5 ottobre di Papa Francesco. Giovanni XXIII spinse, favorì l'iniziativa della Bibbia in ogni famiglia, stessa immagine, stesso, tra virgolette, slogan che viene utilizzato per riportare al centro della comunità cristiana una parola di Dio che deve crescere, che troverà poi, sintesi nel grande documento conciliare della Dei Verbum, quindi una parola che torna ad essere al centro. Ecco, aiutiamo davvero il Santo Padre in questa, in questo messaggio che non è solo uno slogan, è proprio porre al centro della comunità quella parola di Dio che cresce, perché grazie a questa parola anche la nostra, il nostro modo di essere Chiesa oggi possa, aprire le sue porte, vincere le sue corazze, vincere quelle corazze che dobbiamo, frantumare, spezzare, perché la Chiesa possa essere quella che lo Spirito vuole e che il Signore vuole. Ecco, chiudo quindi con questa immagine. A tutti voi, cari ascoltatori, il mio grazie per questo momento di condivisione della parola, e ricordiamoci vicendevolmente alla Vergine Maria che ha custodito e generato la parola, trasformando la parola in carne. Possa questo verificarsi anche in noi. La parola che ascoltiamo e accogliamo possa trasformarsi nella carne dei nostri gesti quotidiani in cui Gesù può continuare a vivere oggi. Un caro saluto e una benedizione a tutti voi. Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.